conversazioni che normalmente seguono un po' le lezioni che vengono dati, vorrei mettere insieme un po' una informazione, perché adesso disponiamo di un'informazione maggiore sul Vangelo di Giovanni nell'ambito dell'utilizzazione fatta proprio dai cristiani, e più anche qualche pensiero che possa nutrire il nostro spirito. In questi ultimi tempi, per dire, non so, da dopo il 1920 ad oggi, praticamente, in questi ultimi tempi, sono venuti alla luce diversi documenti che veramente ci hanno portato a delle conclusioni, per dire poco, eccezionali. Infatti il Vangelo di Giovanni era molto conosciuto per l'uso che se ne era fatto nel campo della polemica. Quale poteva essere questo campo della polemica? Noi lo capite subito. Era soprattutto il campo fisiologico, era soprattutto il prologo di Giovanni, tanto che pensate, se per esempio il tempo di San Ireneo, di Giustiniano, in genere la chiave di lettura dei Vangeli erano quelle che si chiamavano le regole di fede, non erano proprio il simbolo che noi abbiamo. Continuavano in questo modo con il singolo, ma erano dei punti chiave già acquisiti dalla comunità cristiana, che intendevano rispettare questi punti chiave nella lettura delle scritture sacre. E il prologo di Giovanni, a un certo punto, noi troviamo che nelle polemiche cristologiche soffiando la legge di fede. Quando si voleva determinare, cercare, pensare, pregare di Dio, ormai la regola di fede era il prologo di Giovanni. Noi che siamo, diciamo, un pochino più anziani, e ci ricordiamo come la messa finiva sempre col prologo di Giovanni. Ma una delle ragioni era proprio questa. Perché il prologo di Giovanni era diventato quasi la regola di fede di tutta la gente, di tutti i cristiani, che immediatamente potevano proprio a memoria rendersi conto se qualcuno leggeva ciò che Giovanni dice secondo Giovanni oppure secondo altre mediazioni che i cristiani hanno. Ora, quali sono stati i risultati di uno è stato quello che si sono scoperte delle omelie che praticamente pensavano che erano omelie sul Venerdì Santo, che erano di fatto spesso intitolate sulla missione. Abbiamo i nomi che voi sapete, Meritore di Sarti, altri sono anonimi quattro decimali, come si chiamano. 14 anni significa 14esimo, che celebravano la Pasqua il 14 del mese, quindi 14 anni. E queste omelie che si pensava fossero della passione, discorsi sulla passione, a un certo punto ci si è resi conto che queste omelie sono nate nell'ambito del Vangelo di Giovanni. Cioè, il Vangelo di Giovanni si è resi conto che quel prodotto di identificazione di chi sono i cristiani. I cristiani che avevano il concetto giudaico a un certo punto hanno preso le distanze nei riguardi dei giudei. E dove hanno preso queste distanze? Hanno preso le distanze da loro proprio su un punto fondamentale. Cioè sull'epicentro della religione degli ebrei, che era la Pasqua. Per cui i cristiani dicevano: voi celebrate la Pasqua, ma Pasqua non è, non è più Pasqua. Se volete ancora celebrare la Pasqua, dovete celebrare la nostra Pasqua. E qual è la nostra Pasqua? Nel Vangelo di Giovanni noi abbiamo molto sviluppato la simbologia dell'agnello pasquale. Ora, i giudei celebravano la Pasqua, secondo Giovanni, in 14 giorni, cioè quando uccidevano l'agnello, e poi lo mangiavano, in questa uccisione dell'agnello, loro vedevano, diciamo, un simbolo con l'epicentro, che faceva sì che loro entrassero nel mondo della salvezza di Dio, di quella luta e di quella che aspettavano. Ora i cristiani hanno cominciato a dire ai giudei: ma perché vi fermate sempre a guardare? Ma quell'agnello era un simbolo. Quel simbolo era Gesù Cristo. Era il nostro Dio. Ora, se voi volete celebrare la Pasqua, voi dovete celebrarla guardando a chi è morto, qual è quell'agnello immolato, qual è quell'agnello ucciso, a colui che è morto sulla croce. E non dicevano colui che è morto sulla croce, dicevano con un'espressione più tecnica, dice: guardate alla vita appesa. E cioè, che manca un momento della morte di Gesù, vita appesa, cioè colui che è sospeso sul regno, ed è vinta, chiamando la vita appesa, loro dicevano: la Pasqua, che cos'è la Pasqua? La Pasqua è la vita. E se uno brama qui, se uno vuole qui, deve entrare nel raggio di quella vita appesa per chi? Lui ha risposto molto bene questo proprio nei titoli delle lezioni mondane, questo concetto. Vedete, tutto il Vangelo di Giovanni è attraversato da questa unica idea, che Gesù Cristo, nella vita appesa lì, è vita per tutti, è il pane di vita per il mondo, nessuno escluso, è luce per tutti. Queste categorie non sono altre che le categorie della Pasqua che attraversano tutto il Vangelo di Giovanni. Il Vangelo di Giovanni è davvero attraversato dalla Pasqua, diciamo pure che è nato dalla Pasqua, quando i cristiani hanno voluto capirsi chi era, come si differenziava, qual era la loro identità rispetto ai giudei. Lo hanno fatto nell'ambito delle comunità che fanno capo a Giovanni, lo hanno fatto precisando che cos'era per loro la loro Pasqua, la Pasqua dei cristiani. E a questo punto, che hanno fatto? Ci hanno dato una testimonianza del Vangelo di Giovanni, il quale è attraversato da una linea cristologica dall'inizio alla fine, unita ad una linea antropologica e sociologica, cioè perché Cristo ha voluto la Pasqua. E dato che la Pasqua di Cristo l'hanno vista lì sulla croce mentre moriva, dice: perché ha preso tutto il volume della sofferenza umana su di sé? Risponde un altro autore che ha scritto anche in questo ambito, nella lettera di Barnaba, dice: lui ha preso su di sé tutta la passione perché l'uomo è una terra che soffre, e per poter liberare l'uomo dal volume della sofferenza insita nella vita umana, se ne è preso tutti sì. Però nel momento in cui lui moriva, lui pativa, questo è il termine con il quale conosceva Pasqua, lui pativa, in quel momento è la vita del tutto, era un giù. La speranza umana di quella vita umana è più. Io voglio leggere qualche piccolo dato perché sono benissimi per poter capire davvero la valenza del Vangelo di Giovanni nell'ambito della Pasqua. Quindi questo Cristo, questa Cristo Pasqua, che è la stessa cosa, presentato nelle categorie della luce e della vita. Sì. Ecco già primare, vi leggo un testo appunto di queste manie sulla Pasqua che noi abbiamo nel secondo secolo, nell'ambito dell'arte minore dove è nato il Vangelo. Ecco già brillare i sacri raggi della luce di Cristo. Aveggiano i puri lumi dello Spirito Puro. La vita si è diffusa su tutte le cose. Tutto è pieno di luce indefettibile. E la mistica Pasqua, celebrata anche una sotto la legge, compiuta nella realtà per Cristo. Leggo ancora due brani che mettono in luce come questa croce appesa, che non va guardata con lo sguardo del cuore, ma va guardata con il momento della vita dell'umanità, perché quest'albero è diventato l'albero cosmico, l'albero del mondo. Chiunque si abbraccia a quest'albero vive. È diventato l'anima del mondo, l'anima mondo, come questi cristiani hanno utilizzato questa espressione che usavano un po' i filosofi, un po' i cattolici, un po' gli storici, perché si chiedevano il mondo non si risolve. Perché ognuno di noi vive non si risolve. E loro pensavano, perché dice ognuno di noi il mondo stesso è fatto come un globo. E chi mantiene molto questo globo è una croce, lo dice, l'anima mondo. E difatti la croce che fa? Lo separa, però allo stesso tempo lo unisce. Ed ecco i cristiani spiegare ai pagani, agli storici e platonici, ma quest'anima mondo di cui voi parlate, per cui il cosmo vive, per cui tutto vive, per cui l'uomo vive, è quella vita appesa. Cioè è il Cristo della nostra parte. Ecco in che termini loro spiegarono queste cose, così come nel giorno di Pasqua, nella notte di Pasqua, che quello ministro la disse ai fedeli, e noi siamo stati fortunati nella prima scoperta verso l'anno 40. Per questo egli soppianta il legno con i pugni, e l'uomo della mano perversa. Ma pensa semplicemente all'origine, parla dell'albero della vita, della vita, così di resto, e gli lascia inchiodare pienamente la sua mano immacolata e mostra su di esso tutta la vera vita appesa. Che vita l'abbiamo in più. Tu, Israele, non ne hai potuto mangiare. Noi, però, forniti di una gnosi indistruttibile, ne mangiamo. E mangiando non moriamo. È bene anche rilevare a questo punto, vede come il discorso della Pasqua si precisa sempre più, proprio così come noi lo viviamo. Ma se qualcuno si domanda, ma voi a Pasqua che cosa ci vediamo? Che cosa festeggiamo? Ma come? Ma quando? I cristiani mi fanno di mangiare. Cioè, parlano degli oggetti. Ma qual è la Pasqua dei cristiani? Ed eccoci i cristiani che invitano agli ebrei, ma se volete celebrare la Pasqua, venite a celebrare l'Eucaristia con voi. Ma Israele non hai creduto e non hai preso la manna per mangiare di questo frutto. E perciò stai morendo. Viene con noi e dirà questo frutto. Allora naturalmente noi ci rendiamo conto come se vogliamo capire non soltanto tutta la Pasqua, ma se vogliamo capire il discorso di Giovanni sull'Eucaristia, soprattutto il capitolo sesto di Giovanni, assolutamente noi dobbiamo proprio tradurlo, capirlo, leggerlo all'interno di questa Pasqua che attraversa tutto questo Vangelo dal quale è nato, e così si capirà anche tutta la valenza dell'Eucaristia. E allora si capisce anche la comunità cristiana che uso ha fatto del Vangelo naturale. Ma per celebrare l'Eucaristia lo leggeva nell'ottica di Giovanni, di queste comunità, o altrimenti non capiscono la celebrazione dell'Eucaristia. Allora vedete come il Vangelo di Giovanni è il Vangelo delle celebrazioni cristiane. Ora, aver portato il Vangelo di Giovanni all'interno stesso delle comunità eucaristiche, questo ha significato dare la parola di Dio al popolo, alla gente, a tutto il popolo, appartiene al popolo cristiano, alla gente cristiana. Quindi non è un libro, diciamo, per dopo, è un libro anche per dopo. Lo possono anche utilizzare loro, ma il primo dato che bisogna rispettare è questo libro appartiene al popolo di Dio. E il popolo di Dio che riceve l'Eucaristia, chi gliela spiega l'Eucaristia? Ma gliela spiega Giovanni. Ora, le comunità cristiane hanno capito tutto, tutti i padri hanno capito questa prima valenza, no? Del Vangelo di Giovanni come il Vangelo e l'Evangelio del popolo cristiano per farlo vivere. Proprio perché il Vangelo di Giovanni è costruito nell'ambito della Pasqua di Cristo. E leggiamo il loro pensiero. Quest'albero dalle dimensioni celesti si è elevato dalla terra al cielo, fondamento di tutte le cose. Sostegno dell'universo, supporto del mondo intero, vincolo cosmico che si è unita alla instabile natura umana, assicurandola con i chiodi invisibili dello spirito, ma più che stretta la divinità, non possa più distaccarsi. È bellissimo questo concetto, dice una lettera di Stia, perché facendo il discorso allo stesso tempo, non c'è subito appeso della Pasqua della Sede di Dei e poi della loro Eucaristia, ma l'Eucaristia che ti dà distrugge la divinità in modo che tu non possa più distaccare e tu non muori mai, tu possa vivere. Ed ecco il pezzo più bello, finale. Allorché ebbe termine l'alcune cosmico, proietta benissimo l'autore naturalmente, conosceva benissimo la tragedia greca, e proietta Gesù sulla croce che sta lottando con tutto il mondo allo stesso momento. Se lui vince il mondo vive, se lui non vince il mondo si dissolve. Allorché determina l'alcune cosmico, rimase quale confine di tutte le cose, piantato come un trofeo di vittoria. Nel momento in cui tutte le cose erano agitate, dopo un predito e sconvolte per la paura, subito a risalire dello spirito divino, come vi è nato, vivificato e consolidato, l'universo riprovò la sua stabilità. O divina espansione in tutte le cose e in ogni luogo. O crocifissione che si estende attraverso il mondo intero. O unico fra tutti, che sei veramente tutto in tutte le cose, o Pasqua divina, o solennità di tutto il cosmo, o gioia dell'universo, perché la vita si è diffusa su tutti gli esseri, o Pasqua, luce della nuova laboratoria, splendore della virginale Lucia, perché più non si spengono le lampade delle ali. E dunque noi invochiamo in spirito a Cristo, sovrano Dio, re eterno, stendi le tue mani immense sopra la tua chiesa e sopra il popolo santo eternamente tuo. Questa parte forse è il più bello, diciamo, il più bello di espressione di che cosa sia il Vangelo di Giovanni, cioè come va letto il Vangelo di Giovanni, con la gioia della vita che chiederà anche la famosa espressione di sei volte di Gesù, nel capitolo 7 di Giovanni, io sono il pane della vita del mondo. Questo è un po', diciamo, spiegazione. E vi ho parlato quindi di questo primo momento in cui il Vangelo di Giovanni è stato utilizzato soprattutto nella liturgia. La liturgia si chiama come pazzo, come celebrazione di Cristo. Per quanto riguarda questo significato, ci vuol dire ancora come si dice qualche cosa in più. Noi oggi non ci chiediamo neppure che cosa sia la Pasqua, forse perché non ne abbiamo più, non lo so. Certo però i cristiani si sono interrogati fino in fondo che cos'era per loro la Pasqua. E in effetti si sono creati quasi due grossi filoni di interpretazione della Pasqua, di leggere la Pasqua, ma la Pasqua che cos'è per i cristiani? Nell'ambito del Vangelo di Giovanni, i cristiani si chiedono la Pasqua. Per tutto il mondo, che cos'è? Per tutti gli uomini, per tutta l'umanità, che cos'è la Pasqua? È la vita e la luce, dice il mondo. Ora, vedete, questa festa dei giudei, che significò anzitutto il passaggio di Abete, poi presa ancora un secondo significato, la liberazione di un popolo da una schiavitù che ritrovò la sua libertà, cioè diventò un popolo che il popolo non è. Ora questi due elementi sono entrati nel cristianesimo più quanti ne sono in due figure. Uno è il filone strettamente legato a Giovanni, che cioè la Pasqua, dicevano loro, Gesù non la mangiò, cioè non dice Pasqua, ma diciamo il giorno del santo, così come sono illustrati di noi. Gesù la Pasqua, dice, non la mangiò, Gesù la Pasqua la soffrì, la patì, dicevano. Per cui Pasqua, questo termine, lo facevano dipendere dal termine greco patire, diciamo in italiano, ma in greco è quasi uguale. E c'è tanta un'assonanza, non è che Pasqua significa patire. Però loro, per spiegare ai giudei che la Pasqua non era più uccidere quell'agnello, ma l'agnello vero era Gesù, e quando lui è morto, allora è la Pasqua. Allora è stata data la vita a tutti, loro proprio, non perché loro non conoscessero il termine del significato Pasqua, ma volevano esprimere una convinzione, una concezione, una maturazione, che cos'era la Pasqua. Allora diceva, la Pasqua, Gesù non la mangiò di loro, ma la soffrì, la patì. E in quel momento che la soffriva, dava la vita. Per cui è bellissimo anche tutto questo filone che non considerano la Pasqua come noi facciamo un venerdì santo incontrato sul dolore, è un giorno incontrato sulla vita. Allora fecero queste bellissime omelie, noi abbiamo letto qualche brano, vedete, bellissime omelie per celebrare la Pasqua, il giorno di Pasqua, quelle stesse omelie che noi facciamo il giorno di domenica. Allora già è molto bello, noi che stiamo avvicinando alla Pasqua, poter pensare alla morte di Gesù nell'ambito della categoria della vita, del valore che ha donato la sua luce, e non tanto nell'ambito, ecco sì, del sentimento totale di quello che dà il qualcuno. Il secondo filone fu quello della Pasqua, che veramente significa passaggio, tramite, il passare, l'andare oltre. E questo fu soprattutto il filone che sviluppò nel tempo dei padri la chiesa ancorata ad Alessandria, quindi origine ovviamente alessandrino e via dicendo. Ai tempi di Sant'Agostino, lui si trovò con queste due tradizioni, e cioè c'erano una massa di cristiani, tanti, tutti quelli ancora da Giovanni, che la celebravano in venerdì santo. Poi intervenne il Papa di Roma, dice che sarà bene trovare una data di tutti, il Papa Vittore, che per quanto non si comunicava tutte queste comunità, ma intervenne anche San Pireneo, dice che guardi che noi ancora abbiamo una tradizione apostolica, in effetti si adeguarono a celebrare la comunità, però conservarono verso la Pasqua sempre quella tensione universale che Gesù è vivo. Di Cristo di tutti, la Pasqua è una festa di tutti, è una festa di tutti, e per cui bisogna prepararsi tutti insieme e quindi portarlo sempre la nota di vita e non mai portarlo con la nota di dolore da bene pensare. Quell'altro che celebravano la Pasqua come passante, e questa deriva proprio dalla traduzione fatta per bene dall'ebraico, questo passaggio, quest'altra tradizione. Non è capito di questo insieme. E adesso ci troviamo con questa Pasqua di unità insieme. Come li dice insieme? Si voglio leggere prima il passo, lui, spiegando il Vangelo di Giovanni, capitolo 13, verso 1, dove dice prima della festa di Pasqua, Gesù sapendo che raggiunge la sua ora, spiega. Pasqua, fratelli, non è come alcuni ritengono una parola greca, ma ebraica. Ma è sorprendente la coincidenza di significato dei due volumi. La fine in greco si dice paschein, per cui si è creduto che Pasqua volesse dire passione, come se questa parola derivasse appunto dalla fine. Mentre nella sua lingua ebraica, Pasqua vuol dire passaggio, per la ragione che il popolo di Dio celebrò la Pasqua per la prima volta allorché, fuggendo dall'Egitto, passò al Mar Rosso. Ora però, vieni nel mio pensiero, il Cristo viene immolato, quindi Pasqua fa dire, e noi veniamo liberati dalla perdizione, cioè noi passiamo, ecco, Pasqua, passiamo. Ora, se l'ho letto adesso questo testo, dal commento del Vangelo di Giovanni di Sant'Agostino, di modo che si potesse anche capire che itinerario ha fatto il Vangelo di Giovanni della cristianità e oggi sta riscoprendo soprattutto questa colazione che il Vangelo di Giovanni è nato dai cristiani per spiegare che cos'era la loro Pasqua, e cioè per spiegare che cos'era la loro Eucaristia. E diciamo che facendo questo loro hanno pensato a questo Vangelo, il Vangelo proprio per tutti, chi è che celebra l'Eucaristia? Ma tu, il Vangelo della gente. E questo è forse proprio questo corso, ognuno di voi dovrebbe avere una copia del Vangelo di Giovanni che dovrebbe regalare a tutti i credenti. E siamo arrivati a Sant'Agostino. Che cosa è venuto fuori dagli studi, ancora qualcosa di nuovo riguardo al Vangelo di Giovanni, è venuto fuori che noi ci trovavamo di fronte a un libro veramente grande, di un amore enorme di Sant'Agostino, tutto per commentare Giovanni. Qualcuno si è domandato come mai ha commentato Giovanni. Tante risposte sono tutte quante buone, ma la risposta fondamentale che forse è venuta fuori è questa, cioè quando lui è stato fatto si è reso conto che la sua vita aveva un peso se si fosse occupato della gente, avesse nutrito la sua gente con la parola di Dio. E che cosa poteva dare alla gente? Se non commentare il Vangelo della gente che si veniva sempre in questo. E per questo motivo a lui commentò il Vangelo di Giovanni. Poi vediamo che anche ha commentato la prima lettera di Giovanni. E lui si rende conto che la prima lettera di Giovanni è un ultimo commento di Giovanni. Vorrei spiegare sul piano concreto quotidiano come può essere vero il Vangelo di Giovanni per i cristiani. E allora venisse, vedete, quando voi venite al mattino per la celebrazione della festa, la festa di Pasqua, e lui. Certo, voi non venite per ascoltare un maestro molto, ma venite per la festa. Volete sentire qualche parola, ma per adorare Dio. Non per approfondire tanto, perché non è quello che vuole. E allora propose alla gente che venisse anche al pomeriggio ad ascoltare un sermone di otto giorni. La gente forse lì. E lui, quando tutta l'ottava di Pasqua, commentò la prima lettera di San Giovanni al pomeriggio. Mentre, per quanto riguarda il mattino, durante tutta l'ottava di Pasqua, commentò invece i brani sulla risurrezione e vi sono nel Vangelo di Giovanni. Come è stato possibile scoprire tutte queste cose? E che si sono scoperti i calendari di 12, un po' come lo fa nel giro di calendari di 12. Scoprendo i calendari di 12, abbiamo scoperto le letture che facevano dal giorno di Pasqua durante tutta la tavola di Pasqua. Abbiamo pure quella della Quaresima, dove, per ricordarlo, il Vangelo della Samaritana e il Vangelo, praticamente, il primo Vangelo da dato, quindi qui l'onore di Giovanni, nella preparazione della Pasqua, durante la Quaresima. Per dirvi che davvero in questo Vangelo la Chiesa l'ha utilizzato tantissimo. E che cosa c'era nei passi della Pana in questa ottava di Pasqua? È interessante come c'è quella sulla Maddalena, cioè Giovanni 20:18, c'è Giovanni 20:24-21 con l'Apostolo Tommaso, poi ancora Giovanni 20:19-23 quando appare i discepoli, poi c'è Giovanni 21:14 la pesca miracolosa, poi c'è ancora Giovanni 21:15-25 quando Gesù chiede a Pietro se ci voglia bene. Poi abbiamo nell'ottava di Pasqua Giovanni 20:24-31 dove parla della testimonianza di Giovanni, delle cose che lui ha scritto, lui le ha viste e perciò le testimonia così. Ora, qual era il discorso conclusivo, diciamo, il succo della scelta di questi testi? Che cosa proponevano al popolo di Dio leggendo questi testi di Giovanni? Abbiamo visto nel secondo secolo quelle omelie sulla Pasqua, al tempo di Sant'Agostino, che siamo appunto nel secolo V, sono passati due o tre secoli, che cosa proponevano al popolo di Dio? Come lo utilizzano? Lo utilizzano in quei passi sulla risurrezione e mettono in evidenza la risurrezione di Cristo significa la presenza di Cristo per chi? Per che non sarebbe, cioè nella vita della donna. Secondo, nella vita dei discepoli. Terzo, nella vita dei servi della Chiesa, cioè di coloro che guidano il popolo di Dio e portano l'esempio della pesca miracolosa. L'esempio della pesca miracolosa non tanto sul miracolo fatto dopo, quanto cioè che Gesù Cristo incoraggia di guida il popolo di Dio a non desistere, a non stancarsi, ad andare avanti, a gettare l'amo. Qual è quell'amo? Ciò che c'è nel Vangelo di Giovanni. L'amo è il Cristo stesso che è il pane della vita del mondo. Quando Pietro gli chiede se mi ami tu, e cioè che il legame che ti può legare a Cristo è l'amore, e per Pietro e per tutti, quindi per dare soluzione. Ma come posso io amare? Ma come la soluzione deve dare? È l'amore, è tutto il momento che Agostino fa alla prima lettera che fece appunto il pomeriggio dell'ottava di Pasqua, la tiene tutta su questa realtà. Dice: se tu vuoi arrivare al cuore di un uomo, ma come vedi? Ascoltando se ne sei amico. E se vuoi arrivare al cuore di Dio, ma come vi arrivi? Certo, non rispondendo su Dio, ma amato, perché solo l'amore lega un cuore ad un altro cuore. Quindi vedete come ammettono, diciamo, le soluzioni stesse si affidano al cuore di ognuno. Ognuno, diciamo, diceva Agostino, chi è padrone del cuore dell'uomo? Ma ognuno è padrone del suo cuore. Nessuno può mettere le mani sul lavoro del formato. Nessuno. Per cui nessun uomo, dice, può essere mai schiavizzato. Ma perché? Nessuna struttura può schiavizzare l'uomo. Ma perché? Perché Dio ha voluto così l'uomo, libero, in libertà. E la sua libertà è che nessuno gli può mettere le mani sul proprio cuore. E ogni cittadino dice: a quale città appartiene? Appartiene a quella città che lui sceglie col proprio amore, perché due sono le città. O scegli l'amore di Dio e ti colloghi nell'ambito della città di Dio, o scegli l'egoismo e ti colloghi nell'ambito di modo che lui chiamava città terrestre, ma nel senso che terrena vuol dire che perisce, costruisce una città sulla sabbia e sta per sempre. Ora ecco, questa valenza della libertà e dell'amore non si ripete da Agostino nel cuore stesso del fenomeno di Giovanni. Dice: che cosa c'è nel libro di Giovanni? Che cosa c'è nel Vangelo di Giovanni? Perché appartiene al cuore di Dio il Vangelo di Giovanni? Perché bisogna rispettare la libertà e l'amore di ogni persona, perché questo ci arriverà da Dio, la nostra storia. E Dio, spero che tutti, augurando di buona Pasqua. Il padre della Messa, no? Ha fatto quel volume sulla ve lo consiglio veramente. Oltre ai suoi articoli sulla pace, anche lui ha curato la traduzione dei più antichi testi pasquali della Chiesa, cioè questo medio del secondo secolo, e quindi noi abbiamo a disposizione questi testi che io ve lo volevo dire perché sapete che mi sta facendo delle persone che serve la Chiesa. Invece di posizione, ecco, c'è anche un secondo la parola di Giovanni, di ridare il popolo di Dio, perché è tutto, forse può essere il titolo. Dunque, quello del volume sulla Pasqua e dell'editrice Guarietti, voi potete chiedere, guarda che veramente il volume sulla Pasqua. I testi pasquali, che so che si chiamano i più antichi testi pasquali della Chiesa, basta che poi segue qualcuno, e l'ha pubblicato l'edizione di Turci, che è l'edizione di Turci, che per quanto poi riguarda San Agostino, voi sapete che è stata una donna, quella che ci ha portato. Ricordo questo, e il San Agostino, come la domanda da Maddalena, si fa un po'. Oltre agli articoli che qui si ricordano di Pini, ha pubblicato anche un volume che è pieno. I sermoni della Pasqua di San Agostino. È stata anche un'altra donna, che è fortissima, che è come sei cose, che per Giovanni la forma di Ede è quella che più sta individuando il tempo e il tempo dei trattati di Dio. I trattati di San Giovanni. Non è che ci allontaniamo dal tema di materia, ma Grazie.